Buongiorno a tutti e tutte. Buongiornissimo. Caffè? Me lo piglio. Madonna, che bella questa battuta. L'abbiamo appena fatta poco prima che iniziasse la registrazione di questa fantasmagorica puntata di biografie rivoluzionarie. Madonna, ci lanciamo a vicenda le cose, i brani in maniera fantasticissima. Allora, oggi parleremo di anarco-insurrezionalismo francese, la prima ondata dell'anarco-insurrezionalismo francese. Abbiamo trovato un sacco di cose interessanti da raccontarvi, spunti di riflessioni, biografie rivoluzionarie. Anche qualche traccia musicale. Andiamo sul francese, quindi aspettatevi un sacco di Esatto. E andiamo anche sempre più vicini verso l'avere anche noi una sigla per questa canzone. Ce l'abbiamo, una sigla. Ah, succederà, è vero, vero. Ecco. Ci avviciniamo. Mi ricordavo. Dalle prossime, speriamo, puntate, quando inizierà la nostra puntata, voi vi accorgerete, ascoltatori e ascoltatrici, perché partirà. Che cosa? Partirà e andrà chissà dove. Allora, io ho scritto, io per ora la sigla l'ho scelta così, ho scritto anarchia sulla nostra fantastica libreria di Boani e possiamo scegliere. Andiamo sui Pancras oppure una canzone classicona, canzone internazionale. Canzoniere internazionale, cosa vuoi? Dai. Ma io pomperei un Pancras per. Dai, pompiamoci questo Pancras. Questa mattinata. A questo punto mandiamo la sigla di biografie rivoluzionarie. Siamo oggi al 9 maggio, sono le 11.03, siamo quasi in orario. Trasmissione che non è stata detta a nessuno della nostra redazione, così non ha potuto far uscire post sui social, eccetera. Ma fa niente. Possiamo ricordare però come possiamo essere raggiunti. Possiamo essere raggiunti tramite canale Telegram. E che è Radio ZM. Chat di Telegram, a cui potete raggiungere mettendo sulla ricerca del vostro fantastico Telegram questo codice, cioè chiocciola Radio Z trattino basso AM. Ciao, no, sono un coglione. Esatto. Chiocciola Radio Z AM, sento soltanto con la lettera Z AM trattino basso chat. E dovreste riuscire a scriverci per farci notare se diciamo delle fesserie riguardo alla storia del movimento politico dell'anarchismo insurrezionalista. Se succede, non ce ne avete male, dai. Esatto. Cercheremo di ridurre al minimo questo rischio. Non ce ne avete. Secondo me, carissimo, sei un po' basso sul microfono. Dici? Adesso è una cosa che non succede quasi mai. Bene, adesso sei bene. Adesso ok, bene. Siglona e si parte. A tra pochissimo. A bombazza. Beh, ma raga, ma che pezzo, e incredibile. Così iniziamo un po' pancheggianti. Ma avevano avuto in questa canzone, tipo 15, non lo so. Erano incazzatissimi. Brucia il presidente, brutto deficiente. Beh, no, ci sta. Brutto deficiente, proprio. Sì, cioè, nel senso, no, ovviamente è il presidente brutto deficiente, sì, non un'esortazione. Brucia il deficiente. No, beh, forse sì, brucia il presidente. Beh, allora, la canzone di Pancras ci lancia proprio a bombissima sul tema di oggi, sì, che è l'anarco-insurrezionalismo. Sì, già ci fa interrogare, tra l'altro, le parole. Sì, ma veramente. Analizzeremo il testo, ma peccato perché, cioè, praticamente era una specie di manifesto dell'anarchismo insurrezionalista, così, in un minuto e 27 di punk centrata puro. In pieno. Potremmo anche fermarci qua, ma non lo faremo. Esatto, arrivederci, basta, è finito, biografia rivoluzionaria, no, c'è ancora di più da dire. Successo. Vabbè, allora, parliamo di questa corrente di pensiero. L'anarco insurrezionalismo, mi fai con la bocca la base tipo di Quark? Come cazzo? Questa mi sembra quella di X-Files, quella degli alieni. No, vabbè, che pezzo di tristezza radiofonica totale. Dai, vai, vai tu, vai diretto. Diventiamo parzialmente seri. Allora, l'anarchismo di l'anarchismo insurrezionalista è una corrente che affonda le sue radici nella base del pensiero anarchico. Prevede nel suo impianto teorico la fusione della propaganda con il fatto, ovvero, anzi di più, l'utilizzo dell'azione diretta come specifico metodo per propagare il proprio carico teorico, ma anche per creare la rivoluzione qui ed ora. Il pensiero anarchico all'interno della corrente insurrezionalista, insomma, cerca di avvicinare il momento della rivoluzione, rifiutando quindi l'organizzazione delle masse popolari, rifiutando l'attesa della rivoluzione. E qui mi si accende una luce viola sul broadcast. No, giallo, quindi forse ci siamo. Purtroppo ogni tanto dei problemi tecnici potrebbero complicarci la vita, ma noi andremo avanti lo stesso. Quindi, luce viola cosa vuol dire? Ma che ha dei problemi nella connessione. Però è ritornato giallo, quindi ci siamo. Esatto, sta un po' andando avanti e indietro la connessione. E vabbè, noi continuiamo e vediamo cosa succede. La questione è questa, quindi l'anarchismo insurrezionalista si propone di attuare tramite la propaganda di fatto, l'esproprio, le azioni diretta, cioè le azioni di protesta, di denuncia, di opposizione, oppure tecniche quali sabotaggio, l'attentato, si propone di creare delle condizioni per cui la rivoluzione si possa avviare nel momento attuale o che pure siano la realizzazione stessa della rivoluzione. Ci spieghiamo meglio. Può capitare che l'anarchismo insurrezionalista all'interno della sua storia abbia rivendicato atti come l'uccisione di Umberto I da parte di Gaetano Bresci. In quel senso l'insurrezionalismo era la vendetta contro il regnante per il massacro del 1989 a Milano, tra l'altro che l'anniversario si è celebrato pochi giorni fa, quando Bava Beccaris aprì a cannonate il fuoco sulla folla che si stava opponendo a Porta Genova, ci dicono dalla regia. Altre volte invece vi erano proprio dei sabotaggi fatti to cure e da zero, senza avere un precedente giustificazione in azioni di repressione da parte dello Stato o delle caste regnanti, che invece volevano attivare nella popolazione moti di liberazione e o d'agitazione e o di insurrezione più ampiamente intesi. Credo che siamo ufficialmente fuori linea, ma va bene lo stesso. Esatto, quindi si registra e ci piace lo stesso. Ci sentirete in podcast, sarà meraviglioso. A questo punto quindi possiamo andare ad approfondire la base teorica dell'anarchismo insurrezionale, che io malamente prima cercavo di suggerire. Cosa succede? Che per l'anarchico insurrezionalista o per l'anarchica insurrezionalista, in caso sia una compagna, si vanno a unificare i momenti della rivoluzione con il momento della lotta o con il momento dell'insurrezione. Cioè l'insurrezione è già rivoluzione, l'insurrezione mi aiuta a creare la futura rivoluzione, e quindi posso andare a creare un piccolo spazio, magari talvolta anche un luogo fisico liberato dal potere, dal controllo dello Stato autoritario, in cui io riesco a vivere esattamente così come vorrei. Cioè quindi, come dicevo prima, un parziale rifiuto dell'organizzazione e quindi un parziale riconoscimento della corrente dell'anarchismo individualista, ma non ovviamente della sua corrente pacifista. Per quanto riguarda la storia del movimento dell'anarchistruzionalismo, qualcuno riconosce già nei moti della rivoluzione francese alcune correnti che possono essere riconosciute già come insurrezionali. Sicuramente dopo l'esperienza della Comune, Bakunin, altri pensatori italiani come non lo trovo più, Galleani, che in realtà è un italiano in America, e Andrea Costa vanno a teorizzare più concretamente l'anarchismo insurrezionalista, dicendo appunto, potremmo citare la famosa frase di Bakunin: ogni volta che c'è un'opposizione reale al potere, quella è già rivoluzione. Questa è un po' la frase cardine su cui si basa il pensiero. C'è quindi anche un parziale schiacciamento di questa corrente politica sul concetto di opposizione a un sistema piuttosto che costruzione di alternativa. Siamo tornati live a Radio ZAM, c'è stato un tecnico fantastico che con silenzio e solerzia e sensualità, oserei dire. Anche molto sensuale, sì, hai ragione. Ci ha riappicciato la connessione internet, che è tenuta in questo momento da Hank con le sue zampine e fa contatto con la linguetta e permette ai dati di correre. Grazie Hank, che ti sacrifichi per noi anche oggi. Detto questo, torniamo alla parte che voi non avete ascoltato perché eravamo fuori dalla fase, ma fa niente. Il podcast registrato. Cioè, così, noi in realtà siamo così furbi che ci siamo sconnessi da soli perché abbiamo iniziato un discorso. La gente ci sente un discorso iniziato e dice: no, adesso voglio sapere come inizia. Quindi va a vedersi il podcast e gli ascolti schizzano le stelle. Assolutamente sì. Quindi dicevamo, talvolta l'anarchismo insoluzionalista si schiaccia su quella che è l'opposizione al sistema di cose attuali, al sistema vigente di organizzazione sociale, e perde per strada tutto ciò che è la costruzione di alternativa del quotidiano. Sì, poi hai fatto diversi nomi prima che non ripetiamo perché ve li andate a cercare, certo, insomma, sul podcast. E uno di questi, nominato Andrea Costa, che per esempio poi ha fatto parte anche di una corrente organizzativa del movimento rivoluzionario. Nel primo Novecento ha fondato il Partito Rivoluzionario di Romagna, e quindi in realtà poi la complessità di questo pensiero, come in tutti i fenomeni politici, si va a scindere in tantissime correnti, no? Cioè chi appunto per l'organizzazione, chi per lo spontaneismo. Sì, non è nemmeno detto, giustamente come facevi notare tu, che chi prima ha predicato una cosa e fatto una cosa secondo un certo tipo di ideale poi non torni in realtà su un'altra opposizione. Di fatto l'anarchismo insurrezionista, come molte correnti dell'anarchismo ma anche del comunismo, non è dogmatico e chiuso o stabile. C'è chi in un certo periodo ha rifiutato l'organizzazione perché la vedeva come una forma di, se vuoi, di controllo, di gestione del potere, anche di come si dice, un modo per tarpare le ali alla volontà di rivoluzione o alle necessità rivoluzionarie contingenti, e invece in altri momenti ha preferito invece entrare in un'organizzazione perché lo reputava la maniera migliore per riuscire a ricomporre l'elemento rivoluzionario, la classe rivoluzionaria. La classe. Non hai internet nemmeno tu. Oh, cavolo. Mancati questa. Va bene, e questo è un po' l'insoluzionismo classico, quello pre-Novecento. Nel dopo Novecento abbiamo una diffusione di un grandissimo movimento anarco-insoluzionalista, non si direbbe mai dove, ma in realtà noi l'abbiamo scoperto parlando del primo maggio in America, dove si diffonde insieme alle organizzazioni organizzate dei grandi sindacati dei lavoratori delle fabbriche, anche una corrente piuttosto forte che invece si schiera per controorganizzazione sindacale, per l'utilizzo di sistemi, cioè di sistemi di pratiche di insurrezione tipo anarco-insurrezionalista. Ce l'ho fatta, non riesci anche a dirlo, Gulli, talmente veramente è un tema che mi genera qualche scompenso, ma sono bravi rivoluzionari, e bravi rivoluzionari ci provano, e in quanto ci provano sono comunque degni di rispetto. Oh yeah. Detto questo, approdiamo quindi al grande argomento di oggi. Dopo questa rapida carrellata di una quindicina di minuti, arriviamo all'anarco-insurrezionalismo francese dei primi del Novecento. Davide, bene, sì. Sta litigando questo computer? Sì, no, ho appena fatto pace. In realtà volevo solo dare la data corretta della nascita del Partito Socialista Rivoluzionario di Romagna, fondato da Andrea Costa. Niente, era 1893, visto che stavo dicendo prima primi Novecento, ma mi sembrava ci fosse qualcosa da precisare, e l'abbiamo precisato. Tra l'altro, una cosa che non sapevo, e fare queste trasmissioni è molto divertente perché si scoprono cose che veramente non si sapevano. Nel 1874 c'è stata un'insurrezione a Bologna, che se ne viene parlato quando si parla di anarco-insurrezionalismo perché è un esempio di anarco-insurrezionalismo che ha generato la liberazione di una zona geografica fisica per la creazione di una società differente. Esperienza purtroppo effimera, ma non se ne parla assolutamente. Qui siamo già nel 1874, dicevo, siamo già dopo l'Unità d'Italia. Come abbiamo scoperto l'altra sera a Zona Rossa con la Chiara, c'è un fenomeno di brigantaggio, di brigantismo nell'Italia del Sud, che porta metà delle forze armate italiane del tempo a stazionare nell'Italia del Sud per combattere il brigantaggio, ma non è che a Bologna la situazione fosse molto più pacifica. C'erano situazioni di questo genere. Il mio sussidiario, alle medie, alle elementari e al liceo, non ne parlava assolutamente di queste cose. Chiaro. C'è l'Unità d'Italia, c'è la sinistra storica, c'è la destra storica, c'è l'analfabetizzazione, c'è la costruzione dello, certo, Stato, ma di queste cose non si parlava. No, invece sì, l'Italia di fine Ottocento è stata attraversata da fortissimi movimenti sociali, e l'anarchismo è stato uno dei pensieri che ha avuto grande influenza, insieme al marxismo, che in realtà è arrivato un pochettino dopo, come la Briola è stato uno dei diffusori del marxismo in Italia, ma prima abbiamo per esempio anche Malatesta, che poi si avvicina anche al pensiero comunista, ma le rivolte anarchiche contadine in Italia da fino all'Ottocento sono state numerose. E no, appunto oggi parliamo di anarco-insurrezionalismo francese, e e utilizziamo un testo che è un'autobiografia per approcciarci un po' a questo argomento. È l'autobiografia di Victor Serge, che si chiama Memorie di un rivoluzionario, e racconta la vita di questo compagno che ne ha passate di tutti i colori, nel senso che dire che ne ha fatte una più di Bertoldo. Potremmo, citando questo personaggio popolare. Potremmo, è un personaggio Victor Serge abbastanza noto, ma chiaramente non a tutte. E, è stato un anarchico che ha vissuto in gioventù tra Bruxelles e Parigi. Lui è figlio di emigrati russi e quando poi scoppia la rivoluzione russa sceglie di partire e aderisce al partito bolscevico da anarchico, quindi con una posizione minoritaria all'interno di questa grande organizzazione, e insomma poi parteciperà all'opposizione operaia degli anni 30, per poi essere espulso, perseguitato, arrestato durante lo stalinismo. Ma questa è un'altra storia. Questa autobiografia parte dalla sua gioventù passata fra Bruxelles e Parigi, quando lui si approccia alle prime esperienze politiche con l'anarchismo. E partirei un po' con delle letture. Ma secondo te, se iniziamo mettendo un piccolo brano? Ma iniziamo mettendo un brano. Dai, puoi sceglierlo tranquillamente tra questo bel elenco. Il più panchettoso che c'è. Più panchettoso, caro, mi sa che... Cazzo, un casino. Quelle sono quelle che abbiamo selezionato, certo, noi. Sì. Pensavo fosse un altro regalo. Se facciamo così... Guarda, aspetta, no, così non funziona. Andiamo a cercare sempre la nostra biblioteca di fantastici brani. Guarda, prego. Quando vuoi. Quello che vuoi. Quello che ti piace. Ancora quella di Pancras, no? No. Ma seconda. Quindi ci andiamo ad ascoltare dai canti anarchici raccolti dal 1864. Ah, sì. È quella che ho scelto io prima. Quando l'anarchia verrà. Vedi quanto mi piace. Sei fortissimo. Sei proprio fortissimo. Va bene. Allora iniziamo a sentire Quando l'anarchia verrà. Canzoniere internazionale, raccolti di canti anarchici dal 1864 al 1969. Buon ascolto, e poi torniamo a bombissima con Victor Serge e la storia degli anarchici insurrezionalisti francesi. A tra pochissimo. Quando l'anarchia verrà, tutto il mondo sarà trasformato e nei governi sarà il ricordo d'infame passato. L'aborrito confin sparirà, così pure preti e soldati, e nel mondo solo resterà l'ideale in cui siamo animati. E allora nel cuore, pensando all'avvenire, cesserà lo strazio ed il soffrire. Allora nel cuore, pensando all'avvenire, cesserà lo strazio ed il soffrire. Eccoci tornati, biografie rivoluzionarie, Radio ZM, stiamo parlando di anarco-insurrezionalismo dei primi del Novecento in Francia. E ora vi devo abbandonare un secondino con Davide, perché devo andare a cercare un piccolo oggetto che ci può essere utile. Devi andare in bagno? No, devo andare a prenderti cosa caricare per la tua cosa. Grazie mille. Carissimo, vai pure. Inizia col brano, qui lui parla insomma della sua famiglia. Il volto indurito, cerca di prendere il pane a credito, al rientro si chiudeva con i suoi atlanti di anatomia e di geologia, perché lui era un geografo, il padre di Victor Serge. Non ero mai stato alla scuola elementare, perché mio padre la considerava uno stupido insegnamento borghese per i poveri, e non poteva pagarmi il collegio. Si impegnava lui stesso con me, poco e male, ma la passione di sapere e la luminosità di un'intelligenza che non accettava mai di assopirsi, che non indietreggiava mai davanti a una ricerca o una conclusione, emanavano da lui a un grado tale che ne ero magnetizzato, e giravo per musei, biblioteche, chiese, riempendo quaderni di appunti, sfogliando enciclopedie. Imparai a scrivere senza conoscere la grammatica. ma dovetti successivamente imparare la grammatica francese, insegnandola a degli studenti russi. La conoscenza per me non era separata dalla vita, era la vita stessa. I misteriosi rapporti tra la vita e la morte si rischiaravano con l'importanza niente affatto misteriosa dei nutrimenti terrestri. Le parole pane, fame, denaro, niente denaro, lavoro, credito, affitto, padroni di casa acquistavano nei miei occhi un senso rudemente concreto che doveva, credo, predispormi al materialismo storico. Mio padre aveva tanto voluto che io facessi degli studi superiori, malgrado il disprezzo che professava per i diplomi. Me ne parlava spesso, cercava di orientarmi. Un opuscolo di Kropotkin nel frattempo mi mostrò un linguaggio di chiarezza strabiliante. Vabbè, Kropotkin, giusto per aprire la prima parentesi, un grande teorico anarchista di origini russe. Non l'ho più riaperto da allora, quell'opuscolo. E sono passati almeno 35 anni, ma la sua tesi rimane presente nel mio spirito. Cosa volete diventare? Domanda l'anarchico ai giovani studenti. Avvocati per invocare la legge dei ricchi, che è iniqua per definizione? Medici per curare i ricchi e consigliare una sana alimentazione, aria buona, riposo ai tubercolotici dei quartieri poveri? Architetti per alloggiare comodamente i proprietari? Guardatevi dunque intorno e interrogate la vostra coscienza. Non capite che il vostro dovere è un altro, quello di mettervi dalla parte degli sfruttati e di operare per la distruzione di un regime inaccettabile? Se fossi stato io, figlio di un universitario borghese, questi ragionamenti mi sarebbero sembrati un po' sbrigativi e troppo severi verso un regime che comunque, la teoria del progresso che si compie lentamente di secolo in secolo, probabilmente mi avrebbero sedotto. Trovavo invece quei ragionamenti così luminosi che coloro che non li facevano mi sembravano colpevoli. Comunicai a mio padre la decisione di non proseguire gli studi. Cadevo proprio bene. Era un brutto fine mese. Cosa vuoi fare? Lavorare? Studierò senza fare degli studi regolari. In realtà, timoroso dell'enfasi e del gran dibattito ideologico, non osavo rispondergli. Voglio combattere come hai fatto tu. Come bisogna combattere tutta la vita. Tu sei sconfitto, lo vedo bene. Io cercherò di avere più forza e più fortuna. Non c'è nient'altro da fare. È pressappoco ciò che pensavo. Questo, altra parentesi, per aggiornarvi, perché il padre di Victor Serge fu un rivoluzionario russo che a fine 800 emigrato proprio perché insomma una delle sue azioni è fallita, ha arrestato tutti i suoi compagni. Avevo poco più di 15 anni, divenni apprendista fotografo, poi fattorino d'ufficio, disegnatore quasi tecnico del riscaldamento centrale. A quel tempo la giornata di lavoro era di 10 ore. Tenendo conto dell'ora e mezza concordata per il pranzo di un'ora per andare e tornare, facevo una giornata di 12 ore e mezza. In più il lavoro dei giovani veniva pagato in modo ridicolo, quando veniva pagato. Molti padroni proponevano 2 anni di apprendistato senza salario per insegnare un mestiere. Queste cose mi ricordano qualcosa che avevo già sentito, l'apprendistato. Sì, sì. Tu dici dopo il 2000 o...? Sì, dopo il 2000. Ah, ok. Tipo adesso. Dai che ti insegno un mestiere. Il mio lavoro migliore agli inizi fu a 40 franchi, $8 al mese, da un vecchio uomo d'affari che possedeva delle miniere in Norvegia e in Algeria. Se non ci fosse l'amicizia in questi periodi dell'adolescenza, cosa ci sarebbe? Fummo un gruppo di adolescenti più uniti che dei fratelli. Kalemin, piccolo tarchiato miope e dallo spirito caustico, ritrovava tutte le sere il vecchio padre alcolizzato, il cui collo e viso non erano altro che tendini furiosamente annodati. Sua sorella, bella e giovane divoratrice di libri, viveva timidamente davanti a una finestra piena di gerani. Debeau, orfano mezzo operaio tipografo, viveva ad Alderneck, al di là delle acque fetide della Senna, con una nonna che da mezzo secolo non faceva altro che lavare i panni. Il terzo di noi quattro, Luke, ragazzino timido e pallido, con un buon lavoro ai magazzini dell'Innovation, ne veniva schiacciato. Prima c'era una nota su Debeau che vi leggo. Tipografo belga, membro delle GRB, implicato nel processo della banda Bonneau. Di cui parleremo in seguito. Tra l'altro, ragazzi, siamo sicuri almeno una persona ci stava ascoltando, perché si è accorta che la connessione non c'era più. Wow. La professoressa, professoressa Giella da Ponzone ci ascolta. Meraviglioso. Grazie, salutiamo lei, Camillo. Sì, sono certo di almeno un'altra ascoltatrice, tra l'altro. Allora, ci ha chiesto prima, quando è saltato tutto, ci ha detto: ragazzi, non vi sento più, dove siete finiti? Adesso ci siamo. Ci confermerà che ci sente ancora. Ciao Claudia. Disciplina, intrallazzo e stupidità. Stupidità, stupidità, stupidità. Gli sembrava che intorno a lui tutti fossero degli idioti nel vasto bazar così miserabile, così miserabilmente organizzato. E forse da un certo punto di vista aveva ragione. Dopo 10 anni di impiego sarebbe potuto diventare primo venditore e finire la sua vita come caporaparto. Dopo aver collezionato 100.000 piccole oscenità come la storia della bella commessa licenziata per l'indelicatezza di non voler essere andata a letto con un ispettore. Insomma, l'esistenza ci offriva sotto le fattezze di una avvilente prigionia. E ci si offriva. Le domeniche erano delle evasioni benefiche, ma ce n'era una settimana e niente soldi. Talvolta gironzolavamo per le strade popolate del centro, allegri, sarcastici, con la testa piena di idee, e tutte le tentazioni mutate in disprezzo. Il disprezzo diventava davvero troppo. Giovani lupi sfiancati che avevano dell'orgoglio, del pensiero. Avevamo un po' paura di diventare degli arrivisti, quando ripensavamo a molti dei nostri fratelli che erano passati per rivoluzionari e adesso... Cosa saremmo diventati tra 20 anni? Ci chiedemmo una sera. I 30 anni sono passati. Raymond è stato ghigliottinato. Bandito anarchico. I giornali. È lui che ha camminato verso lo sporco marchingegno del buon dottor Ghigliottin, lanciando ai cronisti un ultimo sarcasmo. È bello, vedere un uomo morire. Ho rivisto Jean a Bruxelles, operaio, organizzatore sindacale, fedelmente libertario dopo 10 anni di galera. Luc è morto di tubercolosi, ovviamente. Da parte mia ho subito qualcosa di più di 10 anni di prigionie diverse. Militato in 7 paesi, scritto 20 libri. Non possiedo nulla. Dietro di noi una rivoluzione vittoriosa che è finita male. Varie rivoluzioni mancate. Un numero talmente alto di massacri che vengono le vertigini. E dire che non è finita. Eravamo socialisti, Jean Gardet, salvati dall'idea che non c'era bisogno di dimostrarci, testi alla mano, l'esistenza delle lotte sociali. Il socialismo dava un senso alla vita da militanti. Le manifestazioni erano inebrianti, sotto le pesanti bandiere rosse, faticose da portare quando si era dormito male, mangiato male. E subito apparivano sul balcone della Casa del Popolo il ciuffo leggermente satanico, la fronte bombata, la bocca storta, di Camille Huysmans, un socialista belga della seconda internazionale. Già conosciuto, abbiamo parlato di lui, no? Forse l'abbiamo nominato. C'erano i titoli battaglieri della guerra sociale di Hervé, che è stato un professore acceso antimilitarista, che poi nel 14 ha aderito in realtà alla prima guerra mondiale, è diventato nazionalista, dirigente della tendenza insurrezionale del Partito Socialista Francese. Organizzò un plebiscito tra i suoi elettori. Dobbiamo ucciderlo? Si era sotto il governo Clemenceau e il sangue operaio era collato a fiumi. Alcuni disertori francesi ci portavano all'indomani dei grandi processi di antimilitaristi, il soffio del sindacalismo offensivo di Pateau, Poget, Brochure e Lagardelle. E leggo chi sono questi personaggi. Pateau, dirigente del sindacato degli elettrici, Poget, militante anarcosindacalista, un propagandista molto attivo, è stato celebre il suo manuale Il Sabotaggio, Sabotage in francese. E Georges Yvetot, anarcosindacalista e acceso antimilitarista, che ha scritto l'ABC sindacalista, e Victor Griffoulet, è stato il segretario della CGT tra 1902 e 1909. Benoît Brochu è stato un anarcosindacalista dirigente del sindacato dei minatori, E la Gardelle è stato un sindacalista rivoluzionario che ha fondato la rivista Movement Syndicalist, e poi in realtà poi è diventato un collaborazionista del governo Pétain, addirittura ministro del lavoro sotto il fascismo, insomma il governo nazista francese. Il disprezzo nella tua voce si sente palpabile proprio. Proprio bello. Corretto, proprio corretto, bello. Direi. E siamo qui. I giovani della nostra età parlavano di biciclette. Dove siamo? Ecco. Parlavamo di questi problemi. Fu necessario leggere Bebel. Ah sì, perché qua appunto parla della loro gioventù. Ero sulle note. I giovani della nostra età parlavano di biciclette o di donne in termini odiosi. Parlavamo di questi problemi. Fu necessario leggere Bebel, Le Femme e Le Socialisme. Poco a poco entrammo in conflitto non con il socialismo, ma con tutto ciò che brulica di interessi, niente affatto socialisti, intorno al movimento operaio. Qua è simpatico che appunto racconta delle esperienze adolescenziali, no? Quando, questa è una cosa che tutti quanti anche oggi noi viviamo, l'approccio becero verso la sessualità che i giovani incontrano, e loro, come in realtà anch'io per esempio, attraverso il... Beh, oggi siamo 100 anni avanti, quindi il femminismo, gli studi sul genere. All'epoca c'erano i primi scritti marxisti sulle donne, il socialismo. E questo. E, stabilivamo degli itinerari dei cortei locali per accontentare i proprietari di alcuni caffè affiliati alle leghe operaie. E non c'era modo di accontentarli tutti. La politica elettorale ci disgustava più di ogni altra cosa. Ed era la grande epoca del riformismo. Durante un congresso straordinario del partito operaio belga, Van der Velde, che è stato avvocato professore di economia politica, e che propose nel 1907 l'annessione del Congo, questo qua era nel Partito Socialista Belga, e quindi ricordiamo che ne sta parlando con disprezzo come la grande epoca del riformismo, appunto propose questa cosa qua, l'annessione del Congo. Ci alzammo protestando e lasciammo la sala con gesti infuriati. Dove andare? Cosa fare con questo bisogno di assoluto, questo desiderio di combattere, questa sorda volontà di evadere, malgrado tutto, dalla città e dalla vita senza evasione possibile? La rivoluzione non sembrava possibile a nessuno, in questa grande calma opulenta alle soglie della Prima Guerra Mondiale. Chi ne parlava lo faceva così miserabilmente che tutto si riduceva a un commercio di opuscoli. Il signor Bergeret argomentava sulla pietra bianca. Lui è un minatore che era da poco uscito di prigione. E Émile Chapelier aveva appena fondato una colonia comunista. Sarebbe meglio dire comunitaria, nella foresta a Stockel. Questa colonia si chiamava L'Expérience e consisteva in un'esperienza di abbandono della proprietà privata, e insomma di queste esperienze comunitarie poi se ne sono viste tante, anche oggi ce ne sono. Henry, il fratello del ghigliottinato Emile, attraverso sentieri assolati davanti a una siepe, poi a un portoncino, scusate, mi sono perso, c'era un tavolo all'aperto pieno di volantini di opuscoli, il manuale del soldato della CGT, l'immoralità del matrimonio, la nuova società, procreazione cosciente, il crimine di obbedire, discorso del cittadino, sullo sciopero generale. Quelle erano voci vive, un piattino degli spiccioli dentro un foglio di carta. Prendete ciò che volete, mettete ciò che potete. Il denaro abbandonato dall'anarchia alla luce del giorno ci meravigliò. Si seguiva un pezzo di strada e si arrivava a una casetta bianca sotto il fogliame. Fai ciò che vuoi. Sopra la porta aperta a chiunque. Nel cortile della fattoria un grande divario nero, un grande diavolo nero, con il profilo di un corsaro, arringava una folla attenta. Un bel portamento, davvero, il tono canzonatorio, la battuta pungente. Tema, l'amore libero. Queste colonie generalmente andavano in rovina abbastanza facilmente. Comunque, che meraviglia questo racconto. È bello. Punto primo, un sacco di compagni, di compagni, un sacco di nomi, un sacco di storie di persone, bellissimo. Secondo, cioè adesso si fanno i gruppi di lettura sull'amore libero, sul poliamore, eccetera, ma nel 1900 queste cose devono essere proprio, cioè, la dinamite pura. Siamo abituati, come ci hanno insegnato, a vedere la società come tutta molto più controllata, ristretta, con ancora dei vincoli familiari fortissimi, per cui i gruppi familiari allargati che vivevano tutti quanti nella stessa abitazione, arrivare a vedere qualcuno che parlava di amore libero, di contro il matrimonio, per la procreazione, cioè non so come dire, non è che si è abituati molto a pensare che gli uomini di inizio Novecento pensassero alla procreazione cosciente. Sì, sì, sì. No, infatti, beh, tra l'altro mi stavo anche un po' ingarbugliando perché qua ho segnato tutte le parti da saltare perché sennò diventa infinito il racconto, ma è vero, e poi appunto qua racconta proprio anche la difficoltà che già all'epoca poi c'era in queste comunità, perché chiaramente poi la convivenza stretta e completamente libera è anche complicata da gestire, e qui specificava appunto che una delle più grandi difficoltà era la mancanza di risorse. Ma poi anche comunque, nonostante la gelosia fosse bandita, poi anche le vicende personali fra tutti quanti un po' incasinavano le cose, no? E allora, per fortuna c'è qualcuno che ci ascolta, è arrivato ora un messaggio sulla nostra fantastica chat di Telegram, ci consigliano di leggere The Sad. Potremmo ricordare che questo non è il tema della puntata, stiamo parlando di anarco-istituzionalismo. Poi per quanto riguarda la rivoluzione dei costumi ne parleremo, sì, sicuramente leggeremo The Sad, come ci viene proposto da attenti ascoltator, da un attent ascoltator. Chi sarà? Lo ringraziamo comunque e gli auguriamo di fare dei lunghi viaggi, dei lunghissimi viaggi. La colonia libertaria di Stockel, trasferita a Boisfort, vegetò per vari anni. Fu lì che imparammo a redigere, a comporre, a correggere, a stampare noi stessi il nostro Comunista, che è stato il loro periodico libertario, insomma il giornale che hanno prodotto in gioventù, di 4 paginette. Alcuni operai stagionali ci aiutarono a cercare la soluzione dei grandi problemi. Il tipografo individualista: vecchio mio, ci sei solo tu al mondo, cerca di non essere un bascalzone né uno stupido. Il tostoiano: dobbiamo essere uomini nuovi, la salvezza dentro di noi. L'intonacatore Romando, mi sembrava romano. No, c'è Romando? Sì, discepolo di Bertoni. D'accordo, ma senza trascurare gli scarponi nei cantieri. Questo sei tu. Certo. Questo sei tu. Il chimico ascoltava a lungo e poi diceva con accento russo-spagnolo, cioè che vorrei sentire: sono chiacchiere, compagni. Nella guerra sociale ci vogliono buoni laboratori. Sokolov era un uomo di volontà fredda, formato in Russia da lotte disumane, fuori dalle quali non poteva più vivere. Usciva dalla tempesta, la tempesta era dentro di lui. Ha lottato, ha ucciso, è morto in prigione. L'idea dei buoni laboratori era un'idea russa. Dalla Russia si disperdevano per il mondo uomini e donne forgiati dalla lotta senza pietà, che non avevano altro scopo nella vita, che respiravano il pericolo, il benessere, la pace, la bonarietà dell'Occidente sembravano loro insipidi, li indignavano. Tatania Leontieva, che uccise in Svizzera un signore che aveva scambiato per il ministro dello zar, lei è stata una militante rivoluzionaria russa, figlia di un vicegovernatore che nel 1906 ha ucciso il possidente parigino Müllen, appunto scambiandolo per un ex ministro. Ma senti, vogliamo provare a mettere una traccettina? Dai, quando arrivo a questo punto qua, che mancano poche righe. E appunto poi racconta di questa altra figura, Rips. Visto che mi sto perdendo, dico questa, poi mettiamo la traccettina. Tranquillo. Rips comparve davanti al tribunale della Sein nel 1910, ma appunto venne assolta. È un massimalista russo. Sparò sulle guardie repubblicane dall'alto dell'imperiale di un omnibus in Place de la République. Un rivoluzionario confidente della polizia giustiziò in una stanza d'albergo di Belleville il capo dei servizi segreti dell'Ocran di Pietrogrado. in un quartiere malfamato di Londra, la Fossa dei Cani, che si chiama, cioè il nome del quartiere, nome appropriato per i sordidi drammi degli anarchici russi. Sostennero un assedio nella cantina di una gioielleria mentre i fotografi prendevano un'istantanea del signor Churchill, giovane ministro che dirigeva l'assedio. Quindi prima di diventare ministro fu capitano di polizia e diresse un assedio contro degli anarchici russi che rapinavano una gioielleria a Londra. Wow! Piccola nota su Churchill. Wow. Pezzone, che viaggio. Che viaggio. A questo punto dai, mettiamo un pezzo francese, dato che abbiamo parlato a lungo di rivoluzionari francesi dalle parole di Victor Serge. Direi via. Facciamo. Aspettatemi che devo trovare esattamente il testo. Ah, ok, abbiamo messo due volte. Vai, la Revancheul di Sébastien Faure. Un secondino, giusto che faccio partire giustamente la traccia e via. Dans la grande ville de Paris, dans la grande ville de Paris, il y a des bourgeois bien nourris, il y a des bourgeois bien nourris. Il y a les miséreux qui ont le ventre creux, ceux-là ont les dents longues, vive le son, vive le son. Ceux-là ont les dents longues, vive le son de l'explosion. Dans son lavachole, vive le son, vive le son. Dans son lavachole, vive le son de l'explosion. Il y a les magistrats vendus, il y a les magistrats vendus. Il y a les financiers ventrus, il y a les financiers ventrus. Il y a les argousins, mais pour tous ces coquins, il y a de la dynamite, vive le son, vive le son. Il y a de la dynamite, vive le son, l'explosion. Dansons la ravachole, vive le son, vive le son. Dansons la ravachole, vive le son, l'explosion. Il y a les sénateurs gâteux, il y a les sénateurs gâteux. Il y a les députés véreux, il y a les députés véreux. Il y a les généraux, assassins et bourreaux. Boucher en uniforme, vive le son, vive le son. Boucher en uniforme, vive le son de l'explosion. Dansons la ravachole, vive le son, vive le son. Dansons la ravachole, vive le son de l'explosion. En nom de Dieu, faut en finir. En nom de Dieu, faut en finir. Assez longtemps j'aimerais souffrir. Assez longtemps j'aimerais souffrir. Pas de guerre à moitié, plus de lâche pitié. Mort à la bourgeoisie, vive le son, vive le son. Mort à la bourgeoisie, vive le son d'explosion. Dansons la ravachole, vive le son, vive le son. Dansons la ravachole, vive le son d'explosion. E torniamo dopo questa bella canzone anarchica francese a parlare di biografie rivoluzionarie. Sì, c'è anche arrivata una domanda da. Sì, c'è anche arrivata una domanda perché giustamente il pubblico. Allora, il pubblico ci ha scritto sulla nostra pagina Instagram. Vogliamo ricordare al nostro gentile pubblico che per scriverci direttamente, fare in modo che non rispondiamo immediantosto, come si diceva alle scuole elementari, bisogna scrivere al canale Telegram. Anzi, scusatemi, alla chat Telegram. La potete raggiungere quando aprite Telegram, andate sui nuovi messaggi dove c'è scritto destinatario, scrivete chiocciola radio ZAM solo con le lettere, trattino basso chat, e a quel punto quando inviate il messaggio noi vedremo sul nostro splendido computer che ultimamente sta funzionando, e per ultimamente intendo soltanto l'ultima mezz'ora, vi leggeremo e vi risponderemo immediatamente. Dicevamo, stavamo leggendo il libro di Victor Serge, ci stava raccontando di tanti rivoluzionari e rivoluzionarie che hanno preso parte alle lotte nella prima parte del Novecento in Francia. Era bellissimo perché lui si ricorda questo anarchico socialista poi diventato bolscevico, si ricorda una marea di nomi e una marea di storie, quindi un po' come avere raccontato da un amico, non so, quello che è successo l'anno scorso. I fatti di movimento dell'anno scorso a Napoli potrebbero essere raccontati con la stessa precisione, invece lui parla di cose che sono successe un secolo fa ormai. Bene, sì, che scrive diversi decenni dopo averle vissuto, perché questo testo qua lo scrive intorno agli anni 40, quindi cioè 30 anni dopo. E proseguo con un altro pezzettino. Vada. Il primo ministro Clemenceau aveva appena finito di versare il sangue operaio a Draville, dove alcune guardie erano penetrate in una riunione di scioperanti per scaricare le loro pistole e uccidere vari innocenti. Poi, alle manifestazioni per le esequie, delle vittime a Avignon, dove la truppa aprì il fuoco. Questa manifestazione era stata organizzata dal segretario della Federazione dell'Alimentazione, Métivier, militante dell'estrema sinistra e agente provocatore che il giorno prima aveva preso direttive personali dal ministro degli interni, Clemenceau. Mi ricordo la nostra esasperazione quando venimmo a sapere della sparatoria. La sera stessa, in un centinaio di giovani, dispiegammo una bandiera rossa nella zona degli edifici governativi, contenti di scontrarci con la polizia. Ci sentivamo vicini a tutte le vittime, a tutti i ribelli del mondo. Ci saremmo battuti con gioia per i torturati delle prigioni di Montjuïc e di Alcalá del Valle, che erano le prigioni di Barcellona, dove nel 1896 furono torturati degli anarchici, e invece Alcalá del Val era un villaggio dell'Andalusia dove nel 15 ci fu uno sciopero generale seguito da una repressione spietata, dei quali ogni giorno ci ricordavamo le sofferenze. Sentivamo crescere dentro di noi una magnifica e terribile sensibilità collettiva. Sokolov ci prese in giro per la nostra manifestazione, un gioco di bambini. Lui preparava in silenzio la vera risposta ai fucilatori degli operai. Una volta scoperto il suo laboratorio, in seguito a penosi incidenti, era un laboratorio di bombe. Si rinchiuse in una camera mobiliata, armò la sua pistola e attese. Quando arrivò la polizia, sparò come avrebbe sparato sugli agenti dello zar. Le pacifiche guardie municipali della città di Gand pagavano per i cosacchi, fautori di pogrom, e Sokolov donava la propria vita. Qui o là non importa, purché la si doni alla luce del sole, per risvegliare gli oppressi. Che nessuno in un Belgio fiorente, in una classe operaia diventata una potenza, con le sue cooperative, i suoi ricchi sindacati, i suoi eloquenti rappresentanti, avrebbe potuto capire il linguaggio e le azioni degli idealisti esasperati formati dal dispotismo russo, come avrebbe potuto rendersene conto un Sokolov. Il nostro gruppo, che si chiamava gruppo GR, gruppo rivoluzionario, se ne rendeva un po' meno conto, un po' meglio conto di lui, ma non abbastanza a fondo. Decidemmo di prendere le sue difese di fronte all'opinione pubblica, davanti alla giuria, e io lo feci anche al processo di Gand, in qualità di testimone di scarico. Da un gruppo libraio droghiere sospettato di essere un informatore, avevo incontrato Carui, un tornitore di metalli tarchiato dal fisico di un Ercole da baraccone. Proveniva dalle fabbriche. Diceva di se stesso: ero partito per diventare una bella bestia. Che fortuna che ho avuto a capire. E raccontava di quando aveva vissuto come una bestia, come gli altri, ma peggio ovviamente. Terrorizzando un po' le donne, lavorando duro, rubacchiando un po' nei cantieri, senza sapere cosa fosse un uomo nella vita. Una giovane donna appassionata con i capelli pieni di lendini, tenendo un poppante tra le braccia, e il vecchio informatore con la barba grigia ascoltavano Edward, mentre mi faceva la confessione di incosciente divenuto cosciente. Chiedeva di essere ammesso nel nostro gruppo. «E cosa credi che debba leggere?» «Recluse», risposi io. «Non è troppo difficile?» «No», continuai. Ma già cominciavo a intuire che era immensamente difficile. Lo facemmo entrare, fu un buon compagno. Parigi ci chiamava la Parigi di Zola, della Comune, della CGT, dei giornaletti pieni di braccia ardente, la Parigi dei nostri autori preferiti. La Parigi dove Lenin, in alcuni periodi, aveva curato la redazione dell'Iskra e parlato nelle riunioni di immigrati di quartiere. La Parigi dove risiedeva il comitato centrale del Partito Socialista Rivoluzionario Russo, dove viveva Burkev, che aveva appena smascherato nell'organizzazione terroristica del partito l'ingegnere Azze, che era un membro, che è stato un provocatore, cioè un agente infiltrato. e saltiamo un pezzettino. Di qui un'altra bella carrellata di storie personali. Sì. Che storie? L'anarchismo ci assorbiva completamente, perché ci chiedeva tutto, ci offriva tutto. Esigeva prima di tutto l'accordo tra le azioni e le parole. Delle parole. Ecco perché ci avvicinammo alla tendenza estrema. Quella che attraverso una dialettica rigorosa arrivava a forza di rivoluzionarismo a non avere più bisogno di rivoluzione. L'individualismo era appena stato reso noto da Libertad, che fondò le Corsair Populaire e nel 1905 il settimanale L'Anarchie. Comunque secondo me urge un corso di francese, Davide, sì. Perché non possiamo andare avanti così. Una sofferenza inaudita. Dobbiamo entrambi imparare il francese perché sennò qua... Un macello. E non si conosce il suo vero nome, non si sa niente di lui, prima della predicazione. Infermo alle gambe, camminava con le stampelle delle quali si serviva rigorosamente durante gli scontri. Grande attaccabrighe, del resto, portava su un torso possidente una testa barbuta dalla fronte armoniosa. Però il torso era possente, perché possidente vuol dire proprietario. Il torso era possente, sì. Era possente. Sì. Ma caffè la prossima volta me lo offri veramente. Calma, veramente. Allora, litrate di caffè e corso di francese. Ci siamo. Misero, arrivato come un vagabondo, cominciò la sua predicazione a Montmartre, nei circoli libertari e nelle code di poveri diavoli ai quali veniva distribuita la zuppa, non lontano dai cantieri del Sacro Cor. Violento e magnetico, diventò l'anima di un movimento dal dinamismo straordinario. Ebbe dei figli che rifiutò di iscrivere all'anagrafe. Lo stato civile? Non so cosa sia. Il nome? Me ne sbatto. Si daranno ciò che vorranno. La legge? Che se ne va dal diavolo. Morì in ospedale nel 1908, dopo una rissa. Non senza lasciare il suo corpo. La mia carogna, diceva lui, ai dissezionatori per la scienza. La sua dottrina, che divenne quasi la nostra, era la seguente. Non aspettare la rivoluzione. Coloro che promettono la rivoluzione sono dei buffoni, come gli altri. Fai la rivoluzione tu stesso. Essere uomini liberi, vivere da compagni. Ovviamente semplifico, ma comunque era di una bella semplicità. Comandamento assoluto, regola, e che crepi il vecchio mondo. Di qui partirono ovviamente molte deviazioni. Vivere secondo la ragione e la scienza, conclusero altri. Il loro povero scientismo, che invocava spesso la biologia meccanicista, li portava ad ogni sorta di ridicolaggine, come l'alimentazione vegetariana senza sale o quella di sola frutta, o anche a fini tragiche. Lui qua, insomma, un po' giudicante. Un po' giudicante, ragazzo. Diciamo che insomma, la possibilità di vivere l'anarchismo come rivoluzione attuale, istantanea, porta talvolta a perdere un attimo di vista il fine, soltanto per avere un mezzo che è quello perfetto, perfetto compiuto per avere la rivoluzione qui ed ora. Qui ed ora. E questo non lo diciamo noi, No. Altri conclusero, dobbiamo tenerci al di fuori, per noi c'è spazio solo ai margini della società, senza sospettare che la società non ha margini, che ci siamo sempre dentro, anche in fondo alle galere. E il loro egoismo cosciente si accostava dal basso, tra i vinti, all'individualismo borghese più feroce. Altri, infine, dei quali facevo parte anch'io, cercarono di condurre alla pari la trasformazione individuale e l'azione rivoluzionaria. Secondo le parole di Recluse, fino a quando durerà l'iniquità sociale, rimarremo in stato di rivoluzione permanente. L'individualismo libertario faceva presa sulla realtà più straziante, su noi stessi. Sì, te stesso, solo che si sviluppava in un'altra città senza evasione possibile, Parigi. Immensa giungla dove un individualismo primordiale, diversamente pericoloso dal nostro, quello della più darwiniana lotta per la vita, regolava tutti i rapporti. Anche qui è incredibile come potrebbe essere uno scritto attuale. Cioè il fatto dell'individualismo, dell'isolazione delle persone, dell'isolamento delle persone all'interno delle metropoli, dove tutti quanti sono interessati solamente alla propria sopravvivenza, al proprio guadagno, immersi in un sistema capitalista che noi adesso pensiamo sia selvaggio, totale, completamente, come si dice, penetrante in ogni ambito della nostra vita. Lui scrive di queste cose all'inizio del Novecento e già era così. Già lo percepivano in questo modo. Poi chiaramente c'è stata un'evoluzione oggi, appunto, il turbocapitalismo, comunque davvero ogni attimo della nostra vita è scandito da una norma sociale che comunque si è riuscita a far strada sempre di più, nello spazio e nel tempo delle nostre vite, ma già all'epoca appunto il tentativo di compiere una rivoluzione possibile nella propria vita era fuggire da questa, da questo dominio onnipotente del capitale. Fuggire o mettere i bastoni tra le ruote, giusto? Adesso cosa dici? Muovendoci verso magari una seconda parte dove parleremo di Prima Guerra Mondiale, di gente che ha voltato evidentemente la propria fedeltà dall'anarchismo socialismo all'interventismo al nazionalismo, prima di questa cosa potremmo andarci ad ascoltare un altro bel brano. Cosa vuoi ascoltare, caro? Abbiamo ancora questa traccia. Questa traccia è un po' più datata. Secondo me ci vorrebbe una canzone un po' più... Visto che la lettura è stata un po' lentina, magari, qualcosa che un po' più frizzante. Una cosa più frizzante posso cercarti tra questi qua, però forse li abbiamo già ascoltati. Quindi cosa vuoi fare? Una traccia un po' più lunga, visto che abbiamo sentito canzoni da un minuto finora. E purtroppo le tracce che abbiamo a disposizione sono queste, ma io credo che ci sia una traccina leggermente più lunghina tra queste qui. Dove siamo qua? Sì. Allora, stiamo guardando la durata, ma non riusciamo a non ci è adatto di scorgerla. E durata qua. E qui? Oh, perfetto. Beh, una canzone più lunghina potrebbe essere questa, che dura addirittura 2 minuti e 44. Vai! La mettiamo sul nostro deck, partirà tra pochissimi secondi. Questa biografia rivoluzionaria, 9 maggio, Radio ZM. Potete seguirci su Facebook, su Telegram, su Instagram, ma non mi dire nemmeno dove. Andate a cercarvelo voi. Sì. Ciao, ne. Canto per chi non ha fortuna, canto per me. Canto per rabbia questa luna contro di te. Contro chi è ricco e non lo sa, che sporcherà la verità. Cammino e canto la rabbia che mi fa. Penso a tanta gente nell'oscurità. I microfoni per evitare i ritorni fastidiosi. Ma quindi, finita questa canzone e tornati alla nostra trasmissione, possiamo rispondere finalmente alla domanda dell'ascoltatrice? Ebbene sì, la nostra ascoltatrice ci ha fatto una domanda diretta sfruttando l'anniversario che si compie oggi, l'anniversario della morte, anzi dell'assassinio di Peppe Impastato, militante comunista e contro la mafia. Non so come si possa dire, sì, una sola parola, ucciso, contro la mafia. In Sicilia, dopo aver condotto una battaglia contro i mafiosi atti locali. Da lui figlio, tra l'altro, lui figlio di come si dice, di mafioso, di cosa nostrano, non so come si può dire, no, mafioso in realtà, perché la mafia in Sicilia viene riconosciuta come mafia, con nome di mafia o cosa nostra, ma secondo noi era, ci veniva chiesto, ma secondo voi Peppino in passato poteva essere valutato anche come militante anarchico? Beh, allora, a parte il fatto che gli incasellamenti sono sempre un po' strani da fare, meglio che uno, se la persona se li faccia da sé dicendo certo, io sono questo o quello. Sicuramente la sua militanza all'interno del Partito Comunista, se, che è sempre stata chiara e palese, direbbe no, non è tantissimo un anarchico. Magari però l'accento che ha messo, attenzione, è arrivato un caffè in redazione, Davide si sta... Davide si sta emozionando. Tutto, rovescia. C'è un chilo e mezzo di zucchero, no, adesso. Sì, no, ancora di più. C'è un chilo e mezzo di zucchero adesso nel caffè di Davide. Potremmo dire che c'è un po' di caffè nello zucchero di Davide. Sì. Quindi, no, tornando, mi piace, a Peppino, mi piace zuccherato. Tornando a Peppino Impastato, quello che possiamo dire è che lui ha vissuto la sua vita come militante comunista. È anche vero che ha cercato di vivere il suo ideale di lotta politica giorno per giorno, realizzando in quel momento stesso la rivoluzione per chi aveva intorno a sé. Si inserisce forse in tutto quel più ampia galassia infinita dei movimenti degli anni 70 che si schieravano, ecco, forse non proprio appaiati al Partito Comunista, che invece era per dire la rivoluzione più avanti, la rivoluzione con calma, adesso governiamo, adesso siamo l'opposizione. E quindi mi viene una domanda un po' fantapolitica. Attenzione. Ma che cosa avrebbe fatto Peppino in passato se fosse nato a Parigi nel primo Novecento e fosse stato un amico di Victor Serge? Secondo me un paio di bombe le metteva. Le metteva. Sicuro, sicuro. Oppure fondava il Partito Comunista lui stesso e comunque la sua militanza avrebbe organizzava il popolo altrove. Va bene, no, comunque, caro. Sì, insomma, non fu un anarchico Peppino in passato. Allora, diciamocelo che adesso finiamo la lettura su Victor Serge e le sue esperienze di inizio Novecento nell'ambiente anarchico di Parigi. Abbiamo sentito prima in un piccolo passaggio quale poteva essere il riferimento che da esistenziale che li portava a essere anarchici insurrezionali, ovvero a sposare una causa di una rivoluzione qui ed ora, perché le loro vite di fatto erano piene di disagio sociale, di emarginazione, di fatica. Prima si parlava di questo operaio erculeo che ha scelto, si è riuscito da solo a liberarsi dal suo destino già scritto di diventare una bestia, di diventare gretto, esatto, con le donne, lavoro, rubare, senza avere la possibilità di avere una vita libera da uomo cosciente, ed è riuscito a liberarsi e sposava l'anarchismo insurrezionale proprio per realizzare la sua vita compiuta di essere umano adesso e non in futuro. Esatto, grazie che mi dai conferma di aver capito qualcosa, perché appunto la lettura, soprattutto in quel pezzo lì, mi ero un attimo incastrato in me stesso. Mi arrivano anche messaggi privati dicendomi verve. La questione è che secondo me è uno sgambetto dei nostri cugini d'Oltralpe che con i loro nomi pieni di impronunciabili, cioè, sillabe loro, ci troncano la lettura. Ma dai, cioè, non potevano chiamarsi Alberto, sono. Franco, Gilberto, esatto, Rossi. Che poi io, cioè, potremmo anche cambiare i nomi, però sarebbe un po' da stronzi, no? Ah, tu dici di fare come facevano nel doppiaggio Mediaset anni 90 quasi, degli anime, che quindi hai tipo Marco che viva, cioè, Tokyo, così fissi, diamo tre nomi, le ripetiamo, esatto, Marco, Antonio, Giulio. Potrebbe essere al limite del revisionismo, quindi non oseremo, non lo faremo. Ma continuiamo questa lettura che in realtà sta finendo, tranquilli ascoltatori e ascoltatrici, questa tortura a breve finirà. Davide, non è una tortura, io mi impegnerò un po' di più, ma sta davvero per finire, poi prendiamo un po' con una discussione a tema, ci buttiamo, che ci abbiamo buttiamo appuntato. Numerosi compagni sarebbero presto scivolati in quello che si chiamava l'illegalismo. La vita non più ai margini della società, ma ai margini del codice. Non vogliamo essere né sfruttati né sfruttatori, affermavano senza accorgersi che diventavano, restando comunque l'uno e l'altro, uomini braccati. Quando si sentirono persi, non accettando la prigione, decisero di farsi ammazzare. La vita non vale questo, mi diceva uno di loro, che non usciva più senza la sua Browning. Sei pallottole per i cani da guardia, la settima per me. Sai, ho il cuore leggero. È pesante un cuore leggero. La dottrina della salvezza che è in noi nella giungla sociale finì con la battaglia dell'uno contro tutti. Una vera esplosione di disperazione maturava tra noi senza che lo sapessimo. Una giovane levatrice anarchica rinunciò al suo lavoro perché è un crimine infliggere la vita a un essere umano. L'antica Rue de Rosiers, dove vennero fucilati sotto la comune i generali Lecomte e Thomas, che noi abbiamo ricordato in una puntata passata, insomma, che abbiamo fatto qui. Thomas è stato un generale molto attivo durante la repressione anche nel 48, se ricordiamo. Davanti a una cosa vecchia e alta con le imposte verdi e la redazione dell'Anarchie fondata da Libertad. Era all'interno di un edificio basso, pieno del rumore delle macchine da stampa, di canzoni e discussioni appassionate. Fu lì che incontrai Rirette che risuonava in una canzone che abbiamo nel nostro una cantante? No, è dedicato un passo di una canzone che abbiamo prima selezionato, cioè che abbiamo prima selezionato, ma poi ve lo ricorderemo. Piccola militante aggressiva ed esile, dal profilo gotico. Io propongo, io non impongo niente. Quasi farfugliava, ma dal suo farfugliare si sprigionava insieme a un'audacia concezione della difesa dell'individuo contro la società, la teoria più nefasta, quella dell'illegalismo, che trasformava gli idealisti della vita da compagni in specialisti di oscure attività fuori legge. E saltiamo un po' di pagine. Sfogliare di pagine. Alcuni compagni mi offrirono di riprendere la direzione dell'Anarchie. Misi come condizione che il gruppo precedente di redattori e tipografi, formato da individualisti scientifici, mi lasciassero reclutare da solo i miei collaboratori. Per un mese, tuttavia, convissero due equip. Inebriati dalla loro algebra scientista, che si sottoponevano a discipline alimentari, veganismo assoluto, né vino né caffè, né tè né menta, mentre noi che mangiavamo diversamente eravamo dei non evoluti, che denunciavano continuamente le malefatte del sentimento, invocando solo la ragione scientifica e l'egoismo cosciente. Praticamente c'erano già gli straight edge, fantastico. Esattamente. Che ci fosse in tutta questa ubriacatura una forte componente di infantilismo, molta più ignoranza che coscienza, e anche un desiderio sconfinato di vivere altrimenti ad ogni costo, mi appariva chiaramente. Altro sfogliare di pagine. Comunque bisognerebbe ammirare il lavoro redazionale di Davide, che si è letto un mattone incredibile, ne ha semplificato le parti. Nella lettura non sarò un mago, ma cazzo se ho selezionato. Seleziona. E stiamo per finire. Ti vedo un brivido. Ah, io scrivo. Tra l'altro possiamo dire a tutti e tutte che io ti ho regalato questo libro per il tuo compleanno. Vero, diciamolo, sta anche a casa di mia madre, lo recupererò, lo leggerò, perché effettivamente è veramente bello. Attenzione, qui si leggono i suggerimenti da casa. Poco prima di leggere, il suggerimento cosa dice? Il suggerimento che arriva da casa è, rispetto alla pronuncia francese, basta inventare la pronuncia e fare finta di esserne certi. Beh, non male, quindi basta millantare con coraggio. Questo ci viene detto da casa, ma ci viene detto però io non penso sul che... canale corretto per parlare con noi, la chat di Telegram, sì, la potete trovare scrivendo chiocciola... Non la calcolo neanche, esatto, guarda. Chiocciola radio ZM-chat. Grazie. E proverò questa tecnica. Finiva in Francia la seconda esplosione dell'anarchismo. La prima, non meno disperata, era stata quella degli anni 1891-1894, contrassegnata dagli attentati di Henri, Vallon e Caserio. Questa mi è venuta bene. Sì, hai visto? Perché sei stato sicuro, hai inventato. In realtà non è neanche troppo inventato. Ma vabbè. Questi personaggi sono stati dei propagandisti anarchici dell'anarchia del fatto, quella che un po' spiegavi anche tu prima, insomma, sono stati degli esponenti dell'anarco-insurrezionalismo del fine Ottocento. Il mondo di quell'epoca aveva una struttura compiuta, così duratura in apparenza che non vi si vedeva la possibilità di un cambiamento reale. In piena crescita, in pieno progresso, stritolava tutta la massa delle persone che incontrava nel suo cammino. La dura condizione operaia migliorava solo molto lentamente, ma era senza uscita per l'immensa maggioranza dei proletari. Ai margini della classe operaia, gli esclusi trovavano tutte le porte chiuse, tranne quelle dell'avvilimento banale. Ricchezze spudorate venivano accumulate con orgoglio al di sopra di queste folle. Da questa situazione nascevano inesorabilmente la lotta di classe, con i loro cortei di scioperi insanguinati, la criminalità, la battaglia insensata dell'uno contro tutti. Queste testimoniavano anche del fallimento di un'ideologia. Tra le vaste sintesi di Kropotkin e Recluse e l'esasperazione di Libertad, il degrado dell'anarchismo nella giungla capitalistica diventava evidente. Kropotkin si era formato in tutt'altra Europa, meno stabile, in cui l'ideale di libertà sembrava avere un futuro, in cui si credeva all'evoluzione inevitabile e alla rivoluzione. Recluso si era battuto per la comune. Tanto generosa forza vinta lo aveva riempito di fiducia per il resto della sua vita. Credeva al potere rinnovatore della scienza, alla vigilia della prima guerra europea. La scienza lavorava solo per accrescere le possibilità di sviluppo di un ordine tradizionalmente barbaro. Si sente l'avvicinarsi di un'era di violenza, nessuno vi sfuggirà. Compatisco coloro che crescevano in questo mondo senza conoscerne il rovescio disumano, senza prendere coscienza del vicolo senza uscita e del dovere di combattere, anche ciecamente. Ho solo il rimpianto delle forze perdute in lotte che non potevano essere altro che sterili. Queste mi hanno insegnato che il meglio e il peggio si affiancano nell'uomo e a volte si confondono, e che la corruzione del meglio è quanto vi è di peggio. E finisce così. Cavolaccio. Cavolaccio, che lettura. Secondo me bisognerebbe fare un po' di riflessione, perché secondo me sono usciti alcuni temi veramente importanti. E scrivo ancora un appuntino prima di perdermi l'idea. Sì, io approfitto per leggere l'ultima riga, perché questa qua invece è proprio un pazzo che mi aveva fatto venire la pelle d'oca, che ci tenevo a condividere e che ci tengo a far passare bene, perché trovo veramente interessante. Ho solo il rimpianto delle forze perdute in lotte che non potevano essere altro che sterili. Queste mi hanno insegnato che il meglio e il peggio si affiancano nell'uomo, a volte si confondono, e che la corruzione del meglio è quanto vi è di peggio. Molto vera, molto bella, anche molto chiara. Beh, direi pezzone, per poi passare alla fase 2 della nostra trasmissione. Quella con le mascherine, il distanziamento sociale, ma non andare sul naviglio, non andare sul naviglio. Vai a lavorare, ma non sul naviglio. Io mi premevo a dire una cosa, perché è un argomento di riflessione anche purtroppo legata alle nostre vite degli ultimi anni. Nel senso che talvolta ho visto che in tanti gruppi che si rifanno alle idee più radicali, anarchico-insurrezionaliste, individualiste, si verifica questa specie di strano circolo per cui si parte da un'affermazione della vita libera, lontana dallo sfruttamento del capitale, dall'asservimento alla società così com'è, fatta anche di rivoluzioni istantanee, che poi però vanno a, come dire, incancrenirsi in posizioni così estreme di rifiuto della vita così com'è, che poi si rifiuta la vita per intero. Da una parte, e questa in realtà è l'esperienza soltanto di questi rivoluzionari che hanno fatto la scelta anche della lotta armata, dell'attentato, quindi della violenza, dell'uso della forza contro la persona. Tu ami tanto la vita, vorresti tanto una vita per tutti e tutte libera dallo sfruttamento, che progetti poi la morte di qualcuno, o arrivi addirittura a voler rinunciare alla tua, e quindi a volerti uccidere piuttosto che vivere, ma in carcere, o vivere senza la rivoluzione che desideravi. E anche lì il paradosso che vedo è l'assurdità per cui sia il sistema capitalista che le idee che lo criticano parlano degli stessi oggetti, quindi della vita, promettono una vita differente, il socialismo, l'anarchismo e il capitalismo, e ognuno ha le sue contraddizioni, per cui il capitalismo promette una vita felice, contenta, piena di consumo, piena di oggetti, piena di possibilità legate dal denaro, e crea invece lo sfruttamento e, diciamo, la morte, seppur magari non proprio come termine di vita, ma la morte intellettuale, la morte delle libertà delle persone, perché le lega al lavoro, allo sfruttamento, alle condizioni di disagio e di esclusione. Mentre la vita socialista vorrebbe essere una vita libera dall'obbligo del lavoro, vorrebbe essere una vita in cui ognuno è libero di fare le proprie scelte per quanto riguarda gli affetti, la propria morte, le credenze personali, ma nella costruzione di questo si finisce per appunto preparare l'attentato, costruire la lotta armata contro altri soggetti, o si arriva addirittura, come nel caso dell'anarchismo nichilista, a voler rinunciare alla propria vita perché non si è raggiunta quell'ideale di vita. Ma è una roba molto strana su cui bisognerebbe... Una roba, che termine scientifico e specifico. Non sei mica una scientista. No, certo, però insomma è un argomento, sono dei punti di vista in cui bisognerebbe prendere un attimo coscienza quando si fa politica, per capire esattamente cosa si vuole e perché. Perché uno può anche decidere di essere estremamente coerente, quindi rifiutare in ogni caso di attaccare la persona nella sua incolumità fisica, e accettare quindi d'altra parte che molto probabilmente il potere difficilmente cambia se non lo si tocca, lo si offende nelle sue propaggini personali incorporate in corpi fisici, per dirla così, senza farmi arrestare per aver inneggiato la lotta armata. Attenzione, ma salutiamo il questore che comunque ci ascolta. E si rischia, abbiamo già rischiato tantissimo in questo periodo. Vabbè, io ho detto delle cose, ma spero che non siano state troppo senza senso. Volevamo prima citare il nostro onnipresente Andrea Staide per metterlo in ascolto e farci bastonare quando dicevamo stempiaggini per gente stempiata. Cose senza tempi, esatto, gente che è in calvizie. Stavo dicendo cose per gente con la calvizie. Sì, però la prossima volta direi che lo chiamiamo anche per un contributo storico, visto che ha scritto l'introduzione. Lui ha scritto un libro sugli arditi. Sì. E ha scritto anche l'introduzione a un libro molto interessante su un gruppo di anarchici tedeschi antinazisti che si chiama Le Schiere Nere. Di adesso dirò l'autore, che di Davide Bernardini. Sì. Un ragazzo di Crema che appunto ha scritto questo testo qua molto interessante. E Staide ha fatto l'introduzione, quindi potremmo pensarci. Così, ci penseremo. Va bene, allora comunque noi vogliamo recuperare quella parte di rivoluzione che è gioia, e quindi mettiamo degli area gioia e rivoluzione. Come al solito c'è questo piccolo problema che non riesco a far partire le tracce senza farvi aspettare un po', perché mi impappino sempre, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Dietro di me rispondono al telefono, ma va bene così, buon ascolto. Per te che mi viene a sentire, suono per te che non mi vuoi capire, rido per te che non sai sognare, suono capire. Nei tuoi occhi c'è una luce che scalda la mia mente, con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare, che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Il mio mitra è un contrabbasso che ti spara sulla faccia, che ti spara sulla faccia, cioè che penso della vita. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente, con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare, che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Ed eccoci tornati fantasticamente in onda a Biografie Rivoluzionarie, 9 maggio 2020, l'ennesimo giorno di quarantena, ormai già diventato fase 2. Fase 2. Allora, adesso cosa vogliamo parlare, Davide? Ah, intanto non ho le cuffie, quindi c'è, porca vacca. Non senti quello che sto dicendo? No, lo senti perché sei qui con me anche se a distanza. Ah, è vero. Già, è vero. Dovevo vero. Fare le gabbole. Allora, adesso noi tra poco abbiamo un ospite che chiameremo. Ospitissimo. Un ospite, insomma. Ospitissimo. Un amico e compagno che chiameremo, non a sorpresa purtroppo. No. Ci no. sarebbe piaciuto, ci abbiamo pensato, volevamo fare uno scherzone, alla fine siamo clementi. E ci racconterà qualcosa, beh, dai, anticipiamo. Mentre noi adesso possiamo, visto che prima si è parlato un po' di illegalismo, cioè comunque Victor Serge ci ha raccontato come questa generazione sia un po' finita schiantata contro un muro, come anche tu dicevi prima, tra suicidi, galere e uccisioni, abbracciando questa corrente dell'illegalismo che ha avuto comunque una sua... un suo rilievo in quel periodo, ma che continua a risvegliare un certo fascino, che è sostanzialmente... Cos'è l'illegalismo, Davide? È quella pratica tipo la ginnastica rivoluzionaria, no? In che senso? C'è un po' di ginnastica rivoluzionaria, cioè appunto non aspettare il compimento della rivoluzione sociale, ma agire sempre al di fuori e contro la legge per rompere l'ordinamento costituzionale, no? Ed è quello che un po' Victor Serge definisce infantilismo, perché, vabbè, a parte che anche Lenin scrisse l'estremismo, malattia infantile del comunismo, ma qui appunto siamo in un'altra corrente. E invece Serge, da anarchico, definisce infantile l'illegalismo perché non ha la pazienza di analizzare i fenomeni e inserirsici, mentre è uno scontro a muso duro sempre... per forza, diciamo, al di fuori della legge. Cioè, pensate che da che punto la vedevo io non riuscivo a capire cosa si parlava di legalismo, perché dal punto di vista soggettivo di persona è sempre comunque legata a pratiche illegali, perché d'altronde quello che facciamo come l'occupazione, con il corteo non autorizzato, con lo striscione appeso, è sempre comunque un'azione illegale, perché di fatto va a infrangere delle regole. Questo perché, cioè, per me l'idea di una lotta che segue le regole è purtroppo in questo momento fallimentare a prescindere, quindi nemmeno ci pensavo. E invece c'è chi giustamente dice: no, io posso fare lotta politica seguendo le regole, cioè all'interno di un sindacato, all'interno di un partito, con delle mobilitazioni che seguono le norme e le leggi, posso comunque fare della lotta politica. Assolutamente vero. Sì, o comunque il legalismo è proprio agire nell'illegalità come strumento di lotta, no? Cioè rompere il meccanismo normante, e quella è cioè che sono un po' le basi dell'anarco-insurrezionalismo che raccontavi anche tu prima. Va bene, allora, dopo questa breve puntata sul legalismo, vorrei dare anche una piccola nota. Vai. Su quello che è successo un po' durante la prima guerra mondiale. Con in sottofondo si sono accese delle possente macchine belliche, che sì. Magari si sente qualche rumorino. Sono macchine di propaganda, tranquilli. E stiamo stampando miliardi di volantini e locandine. No, insomma, quando scoppiò la prima guerra mondiale, sia sul fronte degli anarchici sia su quello dei socialdemocratici, anche socialisti di vari paesi, ci fu una rottura e un distanziamento tra posizioni nazionaliste e internazionaliste. Questa cosa avvenne anche all'interno del movimento anarchico. È insomma esemplare il manifesto dei 16, tra cui le firme ti ha attaccato la medislessia ufficiale, è infettiva quasi come coronavirus, tra le firme di questi 16 spiccano Kropotkin e Jean Grave, che loro appoggiano gli alleati nella prima guerra mondiale, in questa guerra contro la Germania. E quindi è interessante vedere come da un lato i sentimenti anti-imperiali che vedevano nell'impero tedesco e nel Kaiser il grande nemico reazionario, da un lato Bakunin da russo, quindi questi sono gli anarchici francesi che si schierano contro la Germania, poi Bakunin da anarchico russo insomma, vince il suo sentimento antitedesco e appoggia la Germania. In questo i bolscevichi e una buona parte degli anarchici di vari paesi invece si oppone e accusa di tradimento quelli che erano stati i loro compagni. Abbiamo un altro esempio, Angelo Tasca, che è stato tra i fondatori, questo invece nell'ambito comunista, tra i fondatori del Partito Comunista, poi scappa in Francia e diventa anche collaboratore del regime di Vichy. Abbiamo Corridoni, che è stato un sindacalista rivoluzionario italiano che poi ha aderito alle posizioni interventiste a fianco anche di Mussolini. Gli hanno dedicato una scuola a Milano, a Corridoni, scuola media se non sbaglio. Sarà, spero, qualcun altro. Controlliamo. E quindi c'è anche questa pagina buia, insomma, dell'anarchismo, e poi c'è anche un po' il dibattito sul perché c'è stata questa caduta nei nazionalismi. Sono varie posizioni, però è un fatto che sia una parte dell'anarchismo sia una parte dei comunisti ha fatto questo scivolone sposando la guerra mondiale. L'altra volta semplicemente sposando i soldi che gli davano i francesi per scrivere a riguardo della guerra, come fece quel fantastico socialista di Benito Mussolini, che casualmente, quando adesso ormai si è stato scoperto, quando ci sono stati dei bonifici fatti a suo carico da parte di un giornale francese che lo pagava per scrivere, casualmente iniziò a passare dalla posizione neutralista e anzi pacifista propria dei socialisti italiani alla sezione interventista, che poi lo lanciò nella politica istituzionale fino a farlo diventare quell'appeso che poi è finito per essere, ricordiamolo così, nel suo momento migliore, quando penzolava. Va bene, cosa mi dici? Andiamo di chiamata? Facciamo una telefonatina. Vai. Una sorpresa. Andiamo a sentire un po' cosa ci dice lui. Lui che non è lui, ma è un altro lui. Perché di lui si sta moltiplicando la nostra quotidianità. Lui, il nostro preferito, è il tecnico fantastico che ci ha reso possibile la radio, i fantastici videini. Stiamo parlando di quello scemo del Lollo, che non ci ascolta. Non ci sente? No, ci sente adesso. Attenzione, io l'ho chiamato. Ma invece la scuola di cui parlavi prima... Pronto? Mi senti, Ale? Pronto? La madonna, già risposto, ma che wow! Ma perché vi sentivo, ma tra l'altro, cioè, vediamo un po' cosa ci dice lui, mi inquieto se mi date il lui, cavolo. Tu sei lui, è così perché sei di Torino. Ma è un po', forse, secondo me è un po' una versione postmoderna che Gulli stava riproponendo, un po' della serie, il film Lei, l'avete visto il film Lei? Quello, no. C'è lo stesso attore che ha fatto il Joker, che è un nome francese che io, in quanto i nomi francesi li canno tutti, non riesco a pronunciare, tipo Jacqueline sì. Qualcosa. Ma che Jacqueline, esatto, vabbè. Quello stesso attore che ha fatto il Joker ci fidiamo. Quindi tu sei un po' lei, un po' lui, ma un non po' lui, lei un altro. Lei è in questo film romantico, lui si innamora di una di un programma del computer, sostanzialmente, che lo segue tutto il giorno con questa voce ed è un motore di ricerca, e lui si innamora di lei. Tu, Ale, ti innamori del motore di ricerca? E invece noi ci innamoriamo di lui. C'è gente che esulta. No, voi vi innamorate di un telefono che parla? Sì, esatto. Sì, ma perché abbiamo anche avuto la sfortuna di averti vicino per 10 giorni in Palestina, e quindi sappiamo anche come sei dal vero. E quello fa la differenza, infatti. Sì, aiuta. Assolutamente aiuta. Sì. Va bene, e cosa ci vuoi raccontare, carissimo? Ma... Fammi fare gli onori di casa. Siamo a Biografie Rivoluzionarie, stiamo parlando di biografie di rivoluzionari e rivoluzionarie che hanno fatto la storia dei movimenti sociali nel Novecento, e quindi di cosa ci vuoi parlare? No, allora io intanto vorrei introdurlo ancora di più. Continuiamo a introdurlo per 8 ore e mezza. Lo introdurrei e basta, poi così. Finiamo. Questa è la domanda tecnica, la puntata dura 6 giorni? Sì, esatto. Okay. Sì, perché poi il settimo c'è un'altra trasmissione, dobbiamo scappare. E lo introdurrei in questo modo: noi prima abbiamo citato un gruppo, che, se possiamo definirlo così, e a me viene in mente un ricordo un po' romantico, passeggiando sui monti di Batir mentre calava il sole, e un bel ragazzo, devo dire, a fianco a me mi raccontava insomma le vicissitudini di un gruppo sovversivo francese che ne ha combinate di cotte e di crude. Chissà che non sia nata lì l'idea nella tua mente di fare un programma radiofonico sulle biografie e di pensare a lui come lei, esatto, che si innamora della di voce noi. Esatto. Ale... Intanto mi sento carico di aspettative dopo questa cioè, descrizione romantica. Ah, sì. Sì, no, quello che mi piacerebbe portare qui, un po' per passione mia, è la storia di Jules Bonneau e della banda Bonneau, no? In maniera molto molto superficiale, perché non sono un tecnico. E appunto, parto da un piccolo aneddoto, anche imbarazzante. Ah, beh, ci piace, questa è Radio Verità. Beh, Radio ricordati che ti abbiamo... cioè, il bagno in Palestina era piccolo e esatto. Umido e lercio, quindi non quello, ci barzelliamo. Ah, non su di te? No, non su di noi. Okay. Ah, ok. Allora, vabbè, come ho conosciuto Jules Bonneau e la banda Bonneau in modo veramente imbarazzante. Da buon ragazzetto di provincia, appena giunto nella grande città a studiare, conosco un amico che ha tatuato In ogni caso nessun rimorso. E io lo guardo un po' tipo anche preoccupato e dico: scusa, ma zì, ma questa cosa qua, cioè, no, non è per gli 883, vero? Che eroe. Ci ho pensato adesso che effettivamente che gli 883 hanno la canzone buona. E ti è arrivata una sberla? E mi è arrivata una sberla, cioè, più che altro morale. Lui mi dice: no, guarda, forse dobbiamo dirci due cose. Usi l'anime. Leggi di questo romanzo perché arriva da lì, è il titolo del romanzo di Cacucci, In ogni caso nessun rimorso. E in quel momento ho imparato tante cose, diciamo una storia molto affascinante che ti sta, cioè, fa salire una bella fotta. Secondo me quando hai aperto il libro tu eri un po' come Samuel L. Jackson quando apre la valigetta in Pulp Fiction, cioè, questa luce dorata ti ha illuminato il volto e hai detto: ho capito. Esattamente, è praticamente andata così. E da lì la mia vita non è più stata la stessa. E consiglio la lettura a chiunque non l'avesse ancora letto. Stavate parlando prima dell'illegalismo. E il periodo è quello. Inizio Novecento, 1910 più o meno. Chi è Jules Bonneau? Jules Bonneau è un ragazzetto parecchio sveglio e anche un po' irrequieto, no? Non ce la fa proprio a stare tranquillo. Se non sbaglio, figlio di minatore, e non appena raggiunge l'età adeguata, a 14 anni il babbo se lo porta a spaccare le pietre, però non ce la fa a star sereno, non ce la fa in nessun modo, e quindi non appena i padroncini della miniera vengono e iniziano a rompere le scatole, a dirgli che boh, deve lavorare, non può stare a fare quello che vuole, ci litiga, lo menano, e da subito inizia a entrare e uscire di galera perché non ce la fa. Piano piano conosce la propaganda anarchica e rimane un botto affascinato da questa cosa, e quindi decide che forse tutta questa sua passione verso il non voler essere costretto a fare cose che non vuole o che non ritiene giuste, tutto il sentimento che prova di fronte alle ingiustizie, ha una ragione ben più strutturata che non una semplice emozione o cose che lo possono spingere ad agire. Quindi nel corso degli anni si impegna per andare alle officine, alle fabbriche, ovviamente viene continuamente licenziato, perseguitato, entra ed esce di galera, fino a che a un certo punto è stanco della sua militanza, insomma, gli scioperi, le botte, la galera, conosce una ragazza, si innamora, si sposano, hanno una bambina e decide di trasferirsi a Ginevra perché vuole staccare, vuole prendersi del tempo, vuole costruire una vita, tra virgolette, normale. Con l'idea che andando a Ginevra non sarebbe stato più perseguitato, avrebbe potuto prendersi, diciamo, delle distanze dalla sua vita passata, e proprio così non è stata, nel senso che anche lì iniziano ad arrivargli, diciamo, essendo nella lista nera dello Stato francese, per cui è un perseguitato politico, le notizie girano un po' in tutta Europa, viene ricercato anche in Svizzera, si trasferisce in Inghilterra, dove si dice essere stato l'autista di Arthur Conan Doyle, con la quale dal romanzo vengono descritte interessantissime discussioni rispetto alla società, alle cose, lo stupore di Conan Doyle, di questo ragazzetto proletario così incredibilmente intelligente con la quale era piacevole stare in macchina. Insomma, è un personaggio molto carismatico, molto forte e profondo. Diciamo, la sua particolarità è stata la voglia di imparare tante cose, appunto nell'esperienza delle officine, lavora come meccanico, è uno dei primi ad imparare a guidare, infatti non era facile essere autista, non c'era un assignment del Novecento di ragazzetti figli di minatori che facevano gli autisti, non facevano ancora le penne col booster, non era ancora il momento, quella è una fase molto più recente dove le biografie rivoluzionarie iniziano con le penne del booster in periferia. Arriverà anche quella puntata. Speriamo. Non vedremo l'ora. Quindi appunto è un buon autista, un abile meccanico, una persona molto intelligente e che riconosce che c'è un grosso problema nella struttura sociale nella quale vive. Mentre lavora per Arthur Conan Doyle in Inghilterra, viene mandato dalla Francia una lettera al suo datore di lavoro dove gli si dice: caro mio, il ragazzo che guida la tua macchina è un pericoloso sobillatore sovversivo, dovresti farci attenzione, non è proprio cosa che tu abbia come tuo dipendente un personaggio del genere. Anche questo passaggio nel romanzo è raccontato in maniera molto profonda, dove lo stesso Conan Doyle dice: ma com'è possibile, io questa persona la conosco, a me non sembra uno che vuole ucciderci tutti a morsi sugli orecchi. Ho passato tecnica singolare di omicidio, peraltro, insomma. Eh? Tecnica singolare di omicidio, mordere sugli orecchi a morte qualcuno, cioè è molto molto doloroso, sicuramente, sì, sicuramente. C'è un sacco di sadismo, se... esatto. E quindi lo caccia, lo licenzia e rientra a Parigi. A Parigi riprende i suoi vecchi contatti, ricettatori, rapinatori, anarchici, tutto quell'humus nella quale era fondamentalmente cresciuto, e inizia a far parte dei circoli di giornali anarchici, partecipa a tutte le discussioni, e in quel momento nasce tutto il ragionamento rispetto all'illegalismo. Anche questo è veramente interessante, perché nel romanzo è raccontato molto bene le grosse discussioni che ci sono tra gli esponenti dei differenti circoli, tra chi ritiene di dover praticare l'azione diretta, chi di dover fare propaganda, chi di dover aspettare che ci sia un pochino più di condivisione con le masse proletarie rispetto all'azione armata. E il nostro caro Jules Bonneau si mette d'accordo con un gruppo di amici e decidono che per loro il tempo è maturo, e quindi l'azione diretta è necessaria. Così dal 1911 al 1912 mettono a segno una serie di colpi tra banche, istituti di credito, e diventano una banda molto famosa. Sono la prima banda che compie le rapine in automobile, una grossa novità tecnica che lascia molto stupore, diventano una leggenda nel cinema, sui giornali se ne parla. Che ancora oggi ci scalda il cuore, direi. Beh, sì, assolutamente, cavoli. Ma è coetaneo di... non Gatsby, come si chiama? Di Dillinger, no? Perché Dillinger è dopo il 29. Sì, dopo. Cioè, niente, scusa. Niente. Appunto, iniziano a rapinare appunto in automobile con una macchina rubata che io leggevo, che un modello, insomma, di quell'epoca, che guardando l'ora, insomma, se lo vedessimo sfilare in città penso che rimarremmo tutti colpiti da questa macchina qua, che è la Belleville, una macchina super singolare, fichissima, cioè mi immagino una rapina a bordo di quella macchina, cioè oh my god, qualcosa di straordinario. Sì, deve essere stato molto particolare, per non riesco a immedesimarmi nella situazione, cioè mi immagino anche tutte le buche che hanno piato, poracci. Madonna. Sicuramente rispetto ai cavalli era molto più facile scappare, chiaro, soprattutto con un pilota come lui, che sembrava essere uno dei migliori autisti della zona, ecco. Questa l'escalation di rapine di azioni armate, non si limitavano alle rapine, spesso anche nella contrapposizione con la polizia andavano a fare da braccio armato, in sostanza. E l'escalation di scontri porta a una forte stretta da parte dello Stato nei loro confronti. Ed è molto singolare come Jules Bonneau è stato ucciso. Arrivati appunto al culmine della tensione, riesce a rifugiarsi nella casa di un amico che a un certo punto viene assediata da polizia ed esercito, che distrugge i muri con bombe e con i colpi di arma da fuoco, cioè letteralmente li sgretola. e lui lì dentro con la sua pistoletta, poraccio, si difende da questa, da questo assedio. E non erano ancora le P38, ma comunque un modello sicuramente non proprio semplice da rispondere a probabilmente i mitra dell'esercito. Appunto, cioè, nel senso, tu immagina, cioè, non lo so, è abbastanza claustrofobica come situazione, stare in una casetta in campagna con tutto l'esercito fuori che ti scaglia bombe a mano, granate sui muri e, cioè, ti grivella, perché appunto la pericolosità era considerata abbastanza elevata. Sì, tra l'altro, scusami, mi hai fatto tornare alla mente, dato che insomma siamo stati compagni di viaggio in Palestina, mi ha fatto tornare alla mente un racconto, il racconto di un signore che abbiamo conosciuto in un terreno agricolo circondato da quattro colonie, che lui da piccolo era rimasto 3 giorni assediato dentro l'appartamento della sua famiglia, con tutta la famiglia uccisa, e fuori gli israeliani che gli tiravano bombe stordenti e fucilate sulla casa, e lui appunto è rimasto 3 giorni senza mangiare e con i cadaveri dei genitori in casa. Mi ha fatto tornare questo flash alla mente, insomma, scene di assedio. Sì, o come il racconto dell'arresto. Sì, no, ci sono ripetute nella storia queste situazioni qua. Non so, quando siamo stati a Nablus, Damian Stark ci raccontava l'arresto in cui i militari sono entrati dalle case dei vicini e Attenzione, perché se continuiamo a parlare di Palestina, la direzione della radio ci fa un richiamo, perché la trasmissione sulla Palestina è dopo. Stiamo attenti. Perché, rimandiamo. Ci sono royalties. No, non è vero. Ovviamente vi potete entrare in relazione con la puntata di dopo, ed è con i compagni e compagni che la gestiscono, Giulia e Riccardo, assolutamente. Io volevo invece fare una chiamata, sì, magari. Una domanda ad Ale, volevo chiedergli qual è il contenuto politico delle azioni di Bonneau. Cioè, abbiamo capito che, scusatemi, non volevo troncare le discorsi di prima, quello che è evidente è che gli stati si impongono a un certo punto, mano militare, di eliminare i loro problemi. Alcune volte sono i criminali come Jules Bonneau, anzi riconosciuti criminali, ma in realtà forse anche soltanto semplicemente rivoluzionari come Jules Bonneau, e i palestinesi nel caso dello stato non stato, una nazione fascista di Israele. E quindi sì, qual era la carica rivoluzionaria? Cioè, il perché le rapine nelle banche portavano uno stato addirittura a mobilitare l'esercito? Direi che il perché le rapine alle banche, cioè, poi tra l'altro non solo alle banche, ma anche piuttosto che la Zecca, piuttosto che tutti i grandi istituti finanziari, necessariamente portano a mobilitare l'esercito, soprattutto quando sono effettivamente efficaci, e in quel momento storico tutta questa serie di rapine erano effettivamente efficaci, venivano sottratti allo Stato ingenti quantità di denaro, quindi era un pericolo reale per il benessere economico della nazione vedere che gruppi organizzati di persone, per quanto piccoli, per quanto virgolette organizzati, nel senso che non è che erano chissà chi, riuscissero a fare dei danni così ingenti, era una minaccia molto grossa. Dall'altro lato, oltre che a una dimensione così tanto pragmatica, c'è anche una dimensione, cioè questa è un po' la necessità che spinge gli stati a reprimere con così tanta violenza e con così tanto vigore queste figure che in sé non sono poi rivoluzionarie, perché hanno una concezione di mondo che deve essere migliore, o hanno già la visione di come vorrebbero che fosse. Non sono queste figure, non sono quelle figure che si muovono perché hanno deciso di aderire a un'idea di un mondo diverso. Quindi, ma diciamo che Bonneau non faceva la rapina e a rapina seguiva volantino, l'abbiamo fatto perché il nostro mondo non deve avere questo quest'altro, deve essere fatto così così così. Bonneau partiva dalla sua esigenza personale di sbarcare il lunario e di opporsi a un sistema che per tutta la vita l'aveva perseguitato, come si è spiegato benissimo, e quindi compiva queste azioni. Scusami. Esatto, sì. No, certo, questo è il punto. Infatti, tipo, per me l'affascinante della sua figura sta in questo punto qui, nel fatto che Bonneau si trova schiacciato da un sistema socio-economico che è per lui insostenibile e fa tutto quello che può per ribellarsi, trova degli ideali che gli danno una via che è, verso una liberazione di sé e degli altri, E in questo, tra l'altro, c'è un altro dato interessante: il come nella sua vita lui non abbia una convinzione pura e dura dell'ideologia, ma appunto a un certo punto se ne distacca, cerca di allontanarsene. Ma il dato è un altro, che non si può, è inscindibile. L'oppressione del sistema capitalistico è a tutto tondo, non puoi uscirne in nessun modo, e se ne sei schiacciato ne sarai sempre schiacciato. L'unico modo che hai è combatterlo, l'unico modo per liberarsi da questa situazione qua. E purtroppo per lui la necessità lo spinge a continuare a combattere il sistema capitalistico, non la volontà di liberazione in generale. Poi anche su questo c'è una sovrapposizione in realtà, cioè ovviamente non è che fosse solo la necessità, ma anche la voglia di essere libero. Sì, poi e la cosa veramente profonda è questa, cioè il fatto che dove spinge l'oppressione dello Stato, del capitale, a che punto porta un individuo, no? Ed è molto bello chiudere leggendo poi il suo testamento, dove lui questa cosa la dice in maniera chiara. Il fatto che, cioè, boh, io tutta questa convinzione non ce l'avevo, un po' mi avete obbligato, cioè, quindi boh, leggerei queste due righe se non mi dispiace così. Vabbè, allora, era la felicità che avevo inseguito per tutta la vita, senza essere neppure capace di sognarla. L'avevo trovata e scoperto cosa fosse. La felicità che mi era sempre stata negata, avevo diritto di vivere quella felicità. Non me l'avete concesso, e allora è stato peggio per me, peggio per voi, peggio per tutti. Dovrei rimpiangere ciò che ho fatto, forse, ma non ho rimorsi. Rimpianti sì, in ogni caso, nessun rimorso. E queste sono le parole che ha scritto mentre era nella casa assediata dall'esercito, e secondo me c'entrano molto questo senso di... Sì, di necessità e... Sì, e di rivalsa. Che non si può scappare dal capitale, perché il capitale è ovunque, e l'unico strumento che abbiamo è quello di combatterlo con ogni mezzo necessario. Vai, Ale, cazzo, dillo! Stacchetto propagandistico. Sì, insomma, cercando di mettere anche alla luce le debolezze del sistema, e ovviamente il sistema cerca ogni modo per invece reagire, e quindi proprio per questo scaglia gli eserciti. Quindi quest'ultima frase con cui hai chiuso la sua testimonianza, tra l'altro poi che dà il nome al libro che ci citavi prima, e anche la frase finalmente per tornare alla tua storia imbarazzante è la frase tatuata sul corpo del tuo amico e compagno, no? Esatto. Alla grande. Beh, direi una chiusura col botto. No, davvero, anche perché sì. Prima di chiudere, vai, dici. È che un'altra cosa che ci insegna questa storia è che nell'individualità il numero della possibilità che abbiamo di vincere queste battaglie sfiorano lo zero, e quindi la necessità poi di stare insieme e restare uniti e unite nel lottare, perché è così che poi realmente riusciamo a portare avanti, insomma, le nostre battaglie contro quello che riteniamo sia ingiusto. Certo, c'è una lacrimuccia che scorre sulla guancia di Guglielmo. C'è scroscio di applausi per questa frase importantemente comunitaria, comunitarista, libertaria anche, ma anche un po' anarchica, sicuramente non individualista, questo possiamo dirlo, ma va bene così. Ale, ti ringraziamo tantissimissimo. Un enorme piacere. Cercheremo anche settimana prossima di chiamarti a casaccio, imponendoti una sveglia irruenta al fine di farti parlare di cose intelligenti. Ti chiameremo alle 7 di mattina per poi alle 12 invece fare collegarci questo pezzo. Grazie mille, caro. Buona giornata, ci risentiremo. Anzi, beh, aspetta, scusami, a questo punto prima giustamente è emerso il tema Palestina. Possiamo lanciare con Ale presente la trasmissione che ci sarà oggi pomeriggio, credo dalle 15. Oh yeah. Si chiama Collegamenti dalla Palestina, per ora ancora in termine un titolo provvisorio. Oggi ai noi non ci ha ancora dato sapere il tema della puntata, forse l'hanno scritto, magari io non l'ho letto. Però ai è noi. Top secret. Tra l'altro, se ti viene in mente una canzone che vuoi che lanciamo in radio prima, insomma, per chiudere il programma di oggi, pensaci un secondo, ma proprio uno, E noi la manderemo. E no, invece, rispetto all'ultima cosa che diceva Guglielmo sull'individualismo, ricordiamo che l'individualismo è stato ed è cardine anche di molte correnti dell'anarchismo, ed è da declinare, insomma, in base al tipo di pensiero di riferimento. Insomma, individualismo non significa solo una cosa, ma dipende un po' dal tipo di ragionamento in cui è inserito. Vai, Fra, oh no, dici Ale, la... oh no, ho detto una stupidaggine, Ale. Vai, Ale, dici una canzone. No, scusa. Pronto? Ma non lo so, sinceramente mi viene in mente un collegamento totalmente estemporaneo, ok? Attenzione. Che sembra molto contemporaneo e anche poco apprezzabile, ma l'unica canzone che mi viene in mente in questa roba qua è Shalla Semper del buon Massimo Pericolo. Mamma mia. Io onestamente pensavo che a un certo punto avessi detto che un po', insomma, Bonnoi è un po' il trapper di noi altri, no? Cioè. E lo è un po', no? In quella storia là ci sta, cioè lui avrebbe sicuramente fatto canzoni trap. Certo, sicuramente. Sei riuscito comunque a chiudere con la tua mamma. Ci è arrivato. Con uno dei tuoi punti di riferimento, no? Delle tue concezioni, no? Perfetto. Va bene, allora, augurandoci tante penne sul booster e tante azioni sovversive, esatto, un po' individualiste ma un po' collettiviste, esatto, lanciamo questo pezzo e a questo punto forse concludiamo il programma. A questo punto, Ale, rimani con noi fino ai saluti finali. Questo è la Biografie Rivoluzionarie. Noi siamo tanto quarta o quinta, boh. Tanto noi siamo così poco individualisti che non abbiamo nemmeno detto chi siamo. Ci siamo presentati, ma che cazzo detto, ce, ma ne chi se ne frega, i nostri nomi, cioè sono collettivi. Noi siamo io. Siamo Vi presento io? Dai. No, non ci presentare. Segretezza. Non ci prendiamo responsabilità di quello che abbiamo detto. Siamo solo parte del tutto. Esatto. Tipo Zapatisti, restate. Madonna, sì, oddio, ho detto anche Zapatisti. Un po' con le mascherine, un po' senza, ma soprattutto e sempre in incontro. Resistenza. La mascherina, ma anche senza, ma sempre resistenza. Bellissimo. Ricordiamo che manderemo in loop nei cortei di domani tutte queste perle. Ciao, sempre, no? Di Massimo Perico. Grazie mille, Ale. Bella. Ciao a voi, ciao a tutti. Saluti a tutti e tutte gli ascoltatori che ci avete seguito in questa cavalcata un po' mattarella nelle biografie rivoluzionarie dell'anarco-insurrezionalismo d'inizio Novecento. Siamo in Francia. La prossima puntata non sappiamo ancora di cosa parleremo, ma ne parleremo e forse, dico forse, avrete avviso di questa. Magari ve lo diremo anche. Esatto, avete avviso di questa trasmissione prima che questa trasmissione sia in corso. Saluta Davide, saluta. Ciao belli, ciao belle, ciao bellu.